L'abbonato della settimana. La nostra campagna abbonamenti e il nostro cuore, come ben sapete, arriva in cantiere e siamo con Enrico, ascoltatore del Breakfast Club. Buongiorno e benvenuto, Enrico. Che sorpresa, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Quali motivi per abbonarsi a Radio Città Fujiko? Sai che abbiamo avviato questa campagna abbonamenti e vogliamo scambiare questo abbraccio con delle dirette testimonianze. Perché abbonarsi a Radio Città Fujiko? Perché beh, innanzitutto la sorpresa, pensavo fosse preparato, invece è stata proprio così a tradimento. Più bello perché abbonarsi per sentimento, abbonarsi perché ti innamori di una radio, di un programma, perché ritrovi quel calore che c'era una volta per radio e soprattutto per l'umanità che viene trasmessa e la verità delle notizie, la parzialità con cui vengono date, almeno il tentativo di essere imparziali. Le persone che ci stanno dietro forse l'ho già detto, ma anche se l'ho detto per me sono molto importanti, perché ognuno nel suo piccolo cerca di trasmettere quello che ritiene importante, quello che ha dentro, le sue passioni. Personalmente mi hanno toccato molto nel mio trascorrere, la mia giornata lavorativa, che è sempre prevalentemente incasinata, mi dà modo di poter imparare cose che altrimenti non ascolterei, non avrei tempo di interessarmene. Insomma, questo è stato il motivo principale, probabilmente un po' confuso, ma avendomi preso così alla sprovvista non avrei avuto modo di preparare altro. Lo riassumo così: il tuo grande cuore. Sì. Grazie Enrico, noi ti facciamo i nostri più cari auguri e ci scusiamo per questa chiamata a tradimento, ma l'abbraccio che arrivi fino in cantiere, tra due elettricisti, ci capiamo. Grazie, grazie. Auguri. Grazie a te, William. Auguri. Ciao, ciao.